Il problema che solleviamo con questo appello è molto semplice. Il governo italiano, anziché contrastare il caporalato nelle filiere tessili, che è un problema grave che abbiamo in Italia, vuole proteggere le aziende che si approfittano di questo caporalato. E quindi le capofila, le grosse aziende del lusso italiano, che sono state oggetto negli ultimi 2 anni di diverse indagini proprio penali, che hanno dimostrato come nelle filiere di produzione del lusso italiano esiste lavoro sotto sfruttamento, esiste lavoro sotto schiavitù. Anziché cercare di agire per prevenire questo fenomeno, per tutelare i lavoratori, la maggioranza di governo sta discutendo una norma che introdurrebbe una filiera certificata nella moda, che permette alla capofila che ne fa parte sostanzialmente di non venire indagata. Quindi crea uno scudo penale che protegge da accuse di sfruttamento del caporalato, non diretto, ma a sfruttamento del caporalato, queste grosse aziende. Questa certificazione oltretutto sarebbe su base volontaria. Questo sì, come tutte le certificazioni. Infatti è anche un po' bizzarro che il governo decida di inserire un dispositivo che è un dispositivo volontario, che nasce solitamente dal basso, da parte degli operatori, come quello di una certificazione. Per cui ancora una volta noi siamo, e non solo noi, perché questo appello insieme a noi è firmato da altre 22 realtà nazionali, tanto sindacali quanto della società civile. Noi riteniamo che non è possibile che per ragioni di tipo promozionale, cioè per promuovere questa iniziativa di certificazione volontaria di filiera, si vadano fondamentalmente a sacrificare i diritti delle persone che su queste filiere ci lavorano e che permettono a queste aziende del lusso di avere le loro borse da vendere a 5.000 euro e i loro pelletterie vestiti che vendono un sacco di soldi quando li producono a pochissimi soldi. Se queste aziende aderissero a questa certificazione, poi sarebbero al riparo da inchieste, indagini che riguardano il caporalato lungo la filiera, la propria filiera? Se queste aziende, questa è tutta ovviamente ancora a livello di discussione, peraltro proprio oggi alla Commissione Attività Produttive della Camera si incardina questo testo in discussione. Diciamo che nella sua forma attuale, nell'articolato attuale, se un'azienda capofila, per cui ti parlo proprio delle grosse aziende del lusso che stanno in cima alle proprie filiere di produzione, facesse parte della filiera di conformità, della filiera certificata proposta dal DDL, le indagini per agevolazione colposa del caporalato nei suoi confronti verrebbero ulteriormente ostacolate, perché l'azienda ha una opportunità in più di dire: io non ho caporalato, io sono in una filiera certificata. Quindi questa filiera certificata permette di mettere proprio uno scudo davanti all'accertamento della responsabilità della capofila, per cui ostacolerebbe moltissimo le indagini per caporalato nei confronti di queste aziende. È fondamentalmente un regalo fatto e finito che la maggioranza di governo dà a tutte ai grandi gruppi del lusso italiano, perché li allontana dall'attività della procura, li allontana dalla responsabilità penale. Quanto è presente il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento nel settore della moda, dell'abbigliamento? Noi possiamo avvalerci a livello pubblico delle indagini che sono state intraprese dalla Procura di Milano negli ultimi 2 anni e che quindi si sono fondamentalmente concentrate sul territorio della Lombardia. Ma il problema è più grande della sola Lombardia. Noi possiamo dire che oggi l'Italia ha un gravissimo problema nella moda, perché l'Italia produce made in Italy sulle spalle di lavoratori sfruttati. Il caporalato è la forma più orribile di sfruttamento del lavoro, consiste fondamentalmente nel lavoro in schiavitù, e quello che noi possiamo sapere con certezza dalle indagini di Milano, possiamo anche in qualche modo immaginare che accada negli altri distretti produttivi tessili italiani ad altissima densità di lavoro. Penso per esempio a quello di Prato. Noi abbiamo dei compagni sindacalisti del Sud Cobas che stanno facendo delle lotte molto importanti di denuncia delle condizioni di sfruttamento. Ora, non sono io a dire caporalato, è un giudice che lo è, ma le condizioni di sfruttamento che i Sud Cobas, ma non solo loro, anche tantissimi altri lavoratori e sindacati denunciano, per esempio nel territorio di Prato, sono altrettanto gravi e importanti. Quindi sì, oggi in Italia c'è un problema vero, che è un problema di diritti umani. Come viene prodotta oggi la moda in Italia? Viene prodotta violando i diritti umani del lavoro, e questo è molto molto grave. E io mi appello veramente a chi oggi, domani entrerà in un negozio di lusso per fare fare il suo shopping e si deve ricordare il modo in cui quella borsa, quella penna, quell'oggetto di lusso, quel capo di abbigliamento viene effettivamente concretamente prodotto. Perché oggi possiamo saperlo. Qualora invece la norma che noi ostacoliamo, alla quale noi ci opponiamo, venisse approvata, noi non potremmo nemmeno più saperlo. E questo è il primo grande problema.